Hai il sigillo di Dio? Leggo nella Bibbia in 2 Corinzi 1, 21, 22. Or colui che con voi ci fortifica in Cristo e che ci ha unti è Dio. Egli ci ha pure segnati con il proprio sigillo e ha messo la caparra dello Spirito nei nostri cuori. Efesini 1, versi 13 e 14. In lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in Lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati all'ode della sua gloria. Leggo ancora Romani 8, versi 15 e 16. E voi non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione, mediante il quale gridiamo Abba, Padre. Lo spirito stesso attesta insieme con il nostro spirito che siamo figli di Dio. Il sigillo è un marchio che serve a garantire l'autenticità di un documento, quindi la sua provenienza, e a rendere evidente se ci sono state delle alterazioni da parte di terzi. Nell'antichità, ad esempio, le case reali avevano un sigillo che serviva ad identificare documenti od oggetti che appartenevano a loro. Nei brani che abbiamo letto, lo Spirito Santo è proprio paragonato ad un sigillo. Si tratta del sigillo particolare con il quale Dio identifica coloro che appartengono a Lui. La presenza dello Spirito Santo è garanzia del fatto che apparteniamo a Dio. Trovo che si tratti di un'immagine davvero incoraggiante. Che bello sapere che Dio ha messo il suo segno su coloro che hanno creduto in Gesù e li ci ha messi da parte come sua proprietà particolare. La presenza del sigillo è una dichiarazione di proprietà, come se Dio dicesse «Questi appartengono a me, fanno parte del popolo speciale che mi sono messo da parte». In due dei brani che abbiamo letto, lo Spirito Santo non è paragonato solo ad un sigillo, ma anche ad una caparra o pegno, ovvero ad un anticipo di ciò che il Signore ha preparato per noi per l'eternità. È un aspetto importante, perché se è vero che il meglio lo vedremo nel mondo a venire che Dio ha preparato per noi, è anche vero che già oggi abbiamo un anticipo del suo regno e già oggi possiamo vivere come cittadini del regno di Dio. La nostra redenzione sarà completa quando saremo alla presenza di Dio e avremo un corpo nuovo, incorruttibile, che non sarà più soggetto al declino e alla morte. Ma già oggi sperimentiamo la gioia della redenzione. Infatti proprio lo Spirito Santo in noi ci conferma che siamo figli di Dio, dandoci la certezza di una riconciliazione con il nostro Padre Celeste e di una comunione con Lui, dandoci di sperimentare un anticipo di eternità nella temporaneità della nostra vita di tutti i giorni, aprendoci una finestra sul nostro futuro che porta luce nel nostro presente. E tu sei stato sigillato da Dio? Sei sicuro di appartenergli? Se non è così, sei ancora in tempo, ora, per riconoscere Gesù Cristo come Salvatore e Signore della tua vita e per lasciare che Egli ponga su di te il proprio sigillo.